Parliamo delle gambe adesso, in difesa soprattutto. Ai vecchi tempi, fine anni 80, con Pitera, ma non solo, la tendenza era restare bassi, bassi, bassi, più bassi possibile, con i piedi, posizione precisa, essere pronti a partire. Ritieni che queste cose siano fondamentali o ci sono alcune correzioni automatiche che ti fanno assumere la posizione migliore? Intanto, secondo me, la posizione di difesa è molto individuale, cioè uno deve trovare una posizione comoda per sé. Prima cosa. Seconda cosa, se ti vengono insegnate quando noi parlavamo di difesa acrobatica, no? Quindi rullate, tuffi, ti vengono insegnate all'inizio bene, la posizione difensiva è sempre corretta. Perché tu la assumi naturalmente. Per fare una rullata devi avere una posizione abbastanza precisa dei piedi, delle gambe, con gli angoli delle ginocchia e delle caviglie. Per cui, se, quindi questo se, io lavoro bene con bambino, io sono convinto che questo qui acquisisca metta in memoria questo tipo di sistema, cioè angoli abbastanza precisi, caviglie, gambe, ginocchia. E ce l'abbia abbastanza naturale, trovi la sua posizione comoda, però diventa naturale per lui, nel momento in cui si appresta a fare una difesa, ad assumere quella posizione. Però definire naturale una posizione di difesa è un po' una forzatura. Nel Ma senso, naturale un significa ragazzino. che puoi trovare un angolo, chi è sotto i 90 gradi, chi è a 90, chi è appena superiore, però comodi, dove io lì riesco a muovermi velocemente, a impattare la palla sempre nel modo migliore. Quindi libertà di scelta per quanto devono essere piegate le gambe, non è Sì. obbligatorio essere troppo bassi. Allo stesso modo, però, continuo a insistere nell'idea che la posizione in difesa non sia così naturale, perché Non un è così bambino naturale perché forse sta in comunque piedi o fa. sì, perché devi sapere che se devi muoverti velocemente e fare una rullata per impiegare meno tempo devi essere il più basso possibile. È anche vero però che se tu sei in quella posizione non comodissimo, comunque la tua reazione è rallentata. Devi trovare la posizione, ma questo la trovi in base a tante, tante volte che tu hai applicato e fatto quell'esercizio, quel gesto, trovi la tua posizione più corretta, dove puoi intervenire più velocemente, ma la devi trovare facendo tante, tante ripetizioni. Quindi torniamo al fatto che è necessario lavorare con molte ripetizioni per capire un po' qual è la tua posizione ideale, Sì. per accumulare proprio un numero alto di ripetizioni e poi però c'è un aspetto che non è allenabile ed è quello che in alcune condizioni la palla è così veloce che non c'è nessuna possibilità di reagire razionalmente. A quel punto si va un po' di istinto. E a questo punto? A questo punto, secondo me, è la capacità, quello che dicevo prima. Ci sono giocatori che sanno leggere prima la palla perché innescano velocemente il meccanismo palla, lettura dello schiacciatore, del muro, per cui sanno prendere una posizione anticipatamente corretta e intervenire, anche quando l'impatto è molto veloce. Non è tanto, secondo me, la differenza quanto io riesco a difendere una palla per dire senza muro, quanto per dire una palla toccata dal muro. Vedi, i giocatori che riescono a partire subito e intercettano prima, altri giocatori neanche partono. La differenza sta sicuramente nell'esplosività del giocatore, ma molto nella lettura, perché io sono convinto che un giocatore come Kiraly è molto meno esplosivo di un giocatore come Marshall, però nelle stesse circostanze ha una riuscita superiore di difendere rispetto all'altro. Quindi, ma questo perché ha una capacità di lettura completamente diversa. Senti, nella tua lunga carriera, chi è il difensore in Ma io ho assoluto più bravo? visto i più bravi che ho visto io, i propri più bravi sono stati gli americani, Seedorf e Karch. Quelli che ho visto in assoluto hanno caratteristiche di difesa acrobatica, di reattività sul tocco dei palloni, quindi Però parliamo di anni 90, 90. giusto? Fine Adesso 80, la palla, viaggia confermamelo. maggiormente. Adesso viaggia la palla, eh. Viaggia, però secondo me viaggiava anche prima così. Cioè, Quindi tu mi confermi che un Kiraly, il il solito. problema non è tanto secondo me quanto viaggia la palla in attacco. Viaggia molto diversamente la palla adesso sul palleggio, che noi attacchiamo palloni più rapidi, però l'impatto per terra è lo stesso. Ok. Quindi è più difficile per il muro arrivare a posizionarsi, si aprono le Sì. diagonali e quindi il campo si allarga in qualche modo, ma la velocità pura dell'attacco non è poi così Non è così diverso diverso. rispetto al passato. E si difende meno bene adesso. Perché sono palloni anche meno gestibili. La palla è meno gestibile. C'è proprio la qualità del pallone. Sì. Vola via di più. Assume degli effetti diversi. Cioè, un Mikasa ha fatto molto di più rispetto a Mikasa quello bianco che eravamo abituati. Per cui la palla a volte la prendi male, mantiene una traiettoria che entra in campo, però con degli effetti diversi. Senti, c'è una palla che ti piace più delle altre difenderla? Ma allora, a me piace molto Mikasa come pallone, per dire. No, mi no, proprio al tipo di palla, cioè il tuffo, la palla forte forte addosso, una a me, secondo me chi piace difendere, sia il tuffo, il gesto acrobatico, la palla senza muro, la diagonale stretta. Cioè, qualche volta però proprio ti piace proprio, qualche volta più di altre. Ma secondo me i gesti acrobatici sono quelli più belli. E quindi un eventuale tuffo lungo. Sì, cioè, secondo me sono quelli che tocca la palla al muro, riesci a cambiare la tua direzione, a salvare una palla che comunque in pochi l'avrebbero salvata. Tu hai giocato in tutte le posizioni possibili e immaginabili, anche in campo, 5-6-1, qual è quella che preferisci? Si difende di più sulle diagonali, secondo me, 5-1, si difende di più, hai più palloni giocabili, più difficile il posto 6. Secondo me. Spieghiamo anche perché. Perché sono palle che generalmente hai più deviazioni sul muro, oppure sono palle che vedi all'ultimo momento perché la posizione del muro non è così fissa, ferma, e quindi tu devi avere una capacità di lettura grandissima e difendi su tutto il campo, mentre posizione 1 e posizione 5 sono delimitate come area. Ed è la ragione storica per cui di solito il difensore più bravo sarà intorno a 6, perché oltre ad avere uno spazio più grande deve leggere di più, deve coprire la diagonale. Siamo a molte più variabili, il problema è quello, sono le variabili che gli si presentano. Però adesso i liberi spesso e volentieri stanno in 5. Stanno in 5 perché comunque generalmente gli schiacciatori sono sempre dei buoni difensori. Ok. Generalmente. Ci sono dei cambiamenti nel momento in cui trovi un posto 6 non bravo, e allora vedi che il libero va al posto 6. Però generalmente i posti 6 sono bravi. Senti una cosa, ma questo libero, che è questo personaggio strano che ha una vita abbastanza recente, non ha mai schiacciato, perché adesso siamo di fronte alla seconda generazione, sì, che non ha mai schiacciato. Il fatto di non averlo mai fatto, di non avere mai murato, può essere una limitazione nel difendere proprio quella zona in cui questa naturalezza è importante? Potrebbe essere una limitazione, potrebbe essere, però sai, non abbiamo ancora di... Tu avresti mai giocato libero? No. Però ci hai pensato a un certo punto, hai detto dai, magari potrei continuare a farlo. Poco, ma non perché a me piace molto difendere, però non reputo il libero un ruolo... Cioè per me la pallavolo è il fatto che racchiude dentro di sé tante cose, cioè il giocatore di pallavolo è un giocatore completo che sa giocare in seconda, prima linea, sa palleggiare, sa difendere. Il libero secondo me non è, cioè non riesco ad accettarlo come un vero giocatore di pallavolo.